Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Senta, io ho 56 anni. In questo momento noi siamo a conoscenza, come forse poche persone, della guerra che è in atto contro l'ideologia gender che vuole essere messa all'interno delle scuole. Come mai a livello nazionale, nelle TV e nelle radio, soprattutto nelle TV, non se ne parla? I genitori stanno mandando a scuola dei ragazzi, bambini d'asilo, prima elementare e così via, che si troveranno davanti a uno sfacelo, che non sapranno più qual è la loro vera identità. Lo scopo è annientare le persone e creare una popolazione di persone che non avranno più identità. Avevo annunciato questa trasmissione e mantengo il mio impegno. Oggi parlo del complotto gender. Ne parlo perché è una fattispecie nuova rispetto ai tanti annosi endemici problemi che ha la scuola italiana, di cui si parla i primi giorni in cui i ragazzi tornano a scuola. Mai come in quest'anno c'è stato qualcosa di nuovo, di scivoloso, ma allo stesso tempo di fortemente, tenacemente radicato ormai nell'immaginario dei genitori: il complotto gender. Lo dico perché ho registrato tante telefonate di madri, di padri terrorizzati che mandano il bambino vestito da maschietto a scuola e torna vestito da femmina, o viceversa, perché ci sarebbe una sorta di complotto internazionale teso a sovvertire i valori tradizionali attraverso la confusione dei sessi. Ma che è successo? È sconvolto, poveretto. Perché? Oh, mi ha raccontato tutto. A scuola hanno fatto una lezione di educazione sessuale basata sulla teoria del gender. Cioè? Alle scuole sono obbligate, sono direttive del governo. Hanno detto che dovrà scegliere in futuro se essere uomo o donna. Dipende da come si sente. Come? Che è normale cambiare di sesso, che puoi essere quello che vuoi, né uomo né donna. Che qualsiasi orientamento sessuale va bene, che si può cominciare anche da piccoli a fare sesso. Sembra vero, questo è uno spot che è girato di un movimento per la famiglia e per la vita, non si sa bene, la famigliola media, il padre rimbambito davanti alla televisione, entra la madre spaventata, perché a scuola ha capito che i figli saranno attraversati dalla perfidia della teoria gender e quindi probabilmente torneranno completamente confusi nella loro identità sessuale. Beh, io penso che mai il bigottismo e la sessuofobia sono andati a braccetto con il complottismo e hanno così fortemente radicato un'identità. Idea attorno a qualcosa che non esiste. Lo dice una persona che ha figli, lo dice una persona che non ha nessuna bandiera e non ha mai difeso nessuna ideologia o nessun modo di pensare in particolare. Una persona curiosa. Perché lo dico? Vi ricordo un documento falso creato dalla polizia zarista agli inizi del Novecento. Si chiamava Protocolli dei Savi Anziani di Sion. Era stato un fatto e messo a posto e messo a punto in maniera specifica perché potesse seminare l'idea ci fosse un grande complotto internazionale sionista e massonico basato sulla disgregazione dei valori tradizionali. Anche allora dicevano questi savi anziani di Sion che conquisteremo il mondo seminando pornografia, dissoluzione, rovesciando tutti i valori. Beh, su questo documento falso si è appoggiato gran parte dello sterminio degli ebrei nella seconda guerra mondiale. Su questo documento falso ancora si alimenta il terrorismo islamico dei paesi in cui è più forte e più virulento. L'ideologia gender è più pericolosa dell'ISIS, dice la prima ci attacca dall'interno, la seconda dall'esterno. Finisce la messa, Don Angelo Perego, parroco di Arosio, piccolo comune in provincia di Como, insomma butta lì queste parole. Quando ho detto che il terrorismo dell'ISIS è meno pericoloso del terrorismo dell'ideologia gender, però dovrei spiegare che il terrorismo dell'ISIS è dall'esterno, no? Quello del gender è un rovinare le personalità a partire dai bambini di 4 anni o di 3 anni, e questo davvero è una cosa pericolosissima. Però lei non ha nulla contro l'omosessuale, ovviamente. Assolutamente no, io sono la presidente della Chiesa, cioè un conto è il peccato, un conto è il peccatore. Vabbè, questo entriamo in un altro argomento, ma la cosa che più mi sorprende è che tanti bravi parroci, tanti illuminati vescovi facciano conferenze facendo passare l'idea che potrebbe essere che un bambino maschio sia indotto a mettersi la gonna, proprio i preti, che in realtà loro sono gli unici che hanno fatto la scuola con la gonna perché hanno fatto il seminario. Beh, di questo meraviglio e di questo argomento voglio parlare con chi è ai vertici dell'istituzione che avrebbe lanciato questa teoria gender, perlomeno nella vulgata che io voglio demolire questa mattina. Ministro Stefania Giannini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Le ho dato una bella patata bollente questa mattina. Sì, però mi fa anche un gran regalo, le confesso, la ringrazio per l'invito e anche per il coraggio e l'onestà intellettuale con cui sta affrontando questo argomento. Beh, io lo trovo ridicolo. Importante e delicato. Pensi, ieri il mio medico, persona istruita, laureata, a cui ho accennato che oggi avrei fatto questa trasmissione, è una cosa incredibile, non ci puoi credere, ti rendi conto? Dicono ai maschi che possono diventare femmine e le femmine che possono diventare maschi. Mi spiega veramente cos'è accaduto, perché questo potesse accadere. Certo, io credo che di fronte a episodi di questa gravità si devono usare le parole giuste, e le parole giuste sono che si tratta di una colossale, scandalosa truffa culturale ai danni delle famiglie, ai danni degli studenti e quindi ai danni di un segmento fondamentale della società italiana. Però, Ministro, molti vescovi partecipano a questa truffa culturale, come se lo spiega? Beh, alcuni, devo dire, parlo della diocesi di Padova, del vescovo di quella città, che invece ha fatto una circolare contro questa corrente che in parte è anche diffusa nella Chiesa Cattolica. Mi auguro che ci sia un ravvedimento immediato anche dopo le cose che sto per dire, e che ha detto: no signori, siete sulla strada sbagliata, state veramente prendendo una colossale cantonata, se vogliamo essere buoni, cioè se vogliamo non vedere malafede, non vedere appunto una strumentalizzazione ad arte. Ma io vado ai fatti, perché il mio dovere, tutelando, come diceva lei, e con una responsabilità apicale, una comunità che è fatta di quasi 9 milioni di ragazzi e le famiglie che sono, diciamo, i ragazzi sono i meno preoccupati, Ministro, di qua sinceramente. Sono d'accordo. Io parlo però alle famiglie e quindi parlo anche a una gran parte della società italiana. Il principio che introduce questa legge, la legge della buona scuola, la legge 107, una legge che si può leggere, è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, io cito il comma, è il comma 16, è un principio sacrosanto che non ha nulla a che fare con la teoria gender. È un principio che esplicita dei criteri di sensibilizzazione all'interno delle scuole alla pari opportunità, quindi alla educazione alla parità tra i sessi, dico tra i sessi, quello femminile e quello maschile, questo perché la nostra società, non lo dimentichiamo, è ancora una società in cui la condizione della donna sul piano culturale, ma sul piano sociale, sul piano economico, deve fare dei passi in avanti, e quindi è esattamente la direzione opposta rispetto a quanto sentivo prima si tenterebbe di fare, cioè di annullare i valori tradizionali, i ruoli. Questa distinzione che è in natura ed è in cultura. A introdurre dei principi di sensibilizzazione dei ragazzi nella prevenzione alla violenza di genere, e la violenza di genere vuol dire, cito dei numeri, quei 174 femminicidi che sono dell'anno scorso e che sono un numero sconcertante per un paese avanzato come l'Italia, vuol dire reati e comunque gli attacchi che vanno verso l'omofobia, che è un tema altrettanto grave e altrettanto sintomatico di arretratezza. Scusi la interrompo, io poi cerco sempre di dare esempi concreti. La prima causa per cui un ragazzo, un vostro figlio viene tartassato a scuola di bulli, è proprio perché gli dicono che sei effeminato. È una cosa che affonda le radici in una sorta di maschilismo ottocentesco. Bellico, militare, non so bene cosa, ma questa è la prima causa. Questa è la causa indiretta, remota, ma ancora persistente, di un'emancipazione femminile che non si è ancora realizzata fino in fondo, e questi sono gli obiettivi educativi a cui anche la scuola deve concorrere, ma come vede sono esattamente nella direzione opposta rispetto a quanto si sta, ahimè, diffondendo in maniera falsa e del tutto scorretta. Ma sono preoccupati i dirigenti scolastici? Un ultimo punto, mi perdoni, sì. Io voglio sottolinearlo perché forse è la sintesi di questo comma 16 incriminato falsamente, ed è l'introduzione della cultura della non discriminazione, di ogni tipo di discriminazione, quindi razziale, quindi etnica, quindi religiosa, quindi cioè quella cultura della tolleranza, della sensibilità all'accoglienza che la scuola in uno stato avanzato e moderno, ma io mi permetto di dire nella storia comunque, ha sempre introdotto in varie forme e che noi rinnoviamo con questa legge dello Stato. Quindi chi ha parlato e continua a parlare di teoria gender in relazione al progetto educativo del governo Renzi sulla scuola fa una truffa, compie una truffa culturale. Allora, io lo voglio dire con chiarezza, ci tuteleremo con gli strumenti di cui... Vi state muovendo in questa direzione, darà un atto concreto. Sì, e quale sarà l'atto? Facciamo circolari, diamo messaggi chiari. Io nelle occasioni opportune l'ho detto con la chiarezza con cui mi sono permessa di esprimermi anche con lei questa mattina e con gli ascoltatori che ci stanno seguendo, ma se ciò non dovesse bastare è credo una responsabilità irrinunciabile di passare anche a strumenti legali. Cioè lei denuncerà, il Ministero denuncerà le persone che diranno che fate parte di un complotto? Diciamo che ci sono delle responsabilità a cui non possiamo sottrarci e questo è veramente un caso di mistificazione inaccettabile. Ma state già prendendo diciamo le misure per far questo atto? Chi sarebbe? Io mi auguro che i messaggi chiari, la circolare che il capo dipartimento sta mandando proprio in queste ore a tutti i dirigenti scolastici, a tutte diciamo le diramazioni periferiche del mondo della scuola, questa è una notizia. Siano sufficienti. Ove naturalmente si continuasse a incriminare in questo modo specifico e circoscritto la legge, è chiaro che studieremo quali strumenti adottare. Quindi mi dice Ministro che in quest'ora ha mandato una circolare a tutti gli uffici dei dirigenti scolastici. Si richiama il comma che io le ho riassunto e che è il punto che va esattamente a dimostrare il contrario di quello che si sta dicendo. Allora le faccio sentire la voce di qualche ascoltatore. Guardi, statisticamente i primi che chiamano sono quelli terrorizzati dalla teoria del gender. Enrico da Padova. Enrico Nicoletti, grazie mille. Il suo contributo, forza, veloce. Il mio contributo, sono venuto a sapere da una maestra d'asilo, sì, che ha fatto un corso lei stessa per diciamo spingere la teoria gender, però se vedono un bambino che gioca con una bambola di rimettergliela in mano in qualche modo, in modo da vedere se questo bambino è più vicino al sesso femminile o maschile. Cioè gli ha detto di fare un test, vedere se il bambino gioca con la bambola. Guarda, io ho giocato con la bambola. No, non è un test. Loro lasciano i bambini giocare e se vedono un bambino che fa un gioco da femmina oppure... E quali sono i giochi da femmina? Giochi da femmina rispetto ai giochi da maschio? Che gioca insieme con le ragazzine con una bambola, che può capitare, non c'è niente. Perché lei non ha mai giocato con una bambola con le ragazzine? Ma certamente. Il problema è che questo l'abbia condannato alla finocchiaggine per tutta la vita, cioè non è un problema. Qual è il problema? Assolutamente. E allora perché si preoccupa? Perché la maestra è dovuta, deve intervenire e cercare di mettergli in qualche modo in mano ancora il bambolotto per vedere se è una ragazzina o un maschietto. Io non ho problemi, però non voglio che a mio figlio vengano insegnate queste cose perché ci penso io a... Però Enrico da Padova, io capisco il suo tema. Si rende conto, lei dice le stesse cose che dicono tutti, come se fosse una parola. Guardate caso, ha tutta la struttura della leggenda metropolitana. Non è ognuno, c'ha qualcuno che gli ha detto qualcosa riferito dall'altro, è sempre la stessa cosa. C'è sempre un insegnante, una maestra che c'ha sorta di questo test della possibile deriva di sesso. Fabio, provincia dell'Imperia. Fabio, pronto? Buongiorno. Sì. Buongiorno. Io vorrei fare una domanda al Ministro, visto che è in linea. Sì. No? Diciamo, il comma 16 è chiaro, cioè non dice nulla su questo complotto gender e questo do ragione al Ministro. Ma però, esiste il complotto gender, secondo lei? Non sulla buona scuola, ma nel mondo sì che esiste. Ma qual è lo anche scopo? Nella vostra radio esiste. Sì, Parenzo e Cruciani, mi scusi, le faccio un esempio, sì, no? Parenzo e Cruciani, che è la vostra trasmissione, sì, di punta in questo momento, con il top degli ascoltatori, come minimo dedica dai 30 ai 45 minuti a parlare sempre del gender, di questioni gender, cioè omosessualità, mi piacerebbe fare così, proviamolo una Fabio, volta, Fabio, quindi sì, Fabio, non mi venga a dire che non c'è, no, perché non questa è una bugia. No, io sono questa tranquillo. Fare un esempio al Ministro. Mi faccia parlare, Fabio, scusi. L'altro giorno, perché solamente ho citato il gender, mi hanno detto la vostra è una radio di finocchi, dandomelo anche a me. Io non me la prendo, non mi arrabbio, solamente non lo trovo nemmeno un insulto. Ma parlano di un problema che è attuale. In questo momento state allarmando i genitori d'Italia che ci sia questa sorta di complotto. Dica la domanda al Ministro, forza. Allora, la domanda al Ministro è questa. In ossequio al comma 16, sì, io, dirigente scolastico, propongo. Lei è un dirigente scolastico? No, io faccio l'esempio, no? Ma lei cosa faccio fa nella vita? Propongo nella vita piano cosa fa? Formativo. Sì, cosa propongo. Fa nella vita, Fabio? Lei cosa fa nella vita? Allora, io nella vita faccio il commercialista, però sono presidente di un movimento che si chiama Consorzio Vitae. Vitae, sì. Che è per la tutela della vita nascente, in generale della famiglia, e non ha niente a che vedere con questo discorso delle... Però la vedo molto reattivo su questo tema. No, sono reattivo perché, le spiego il perché. Io faccio un esempio, proposta formativa del mio istituto, no? Propongo un corso, no? Propongo un corso e lo metto nel piano formativo dove indico che le finalità del corso sono queste: riconoscimento della coppia naturale, riconoscimento della parità di genere e va bene, e poi riconoscimento anche sulla base della legge che adesso uscirà, per esempio, no? La legge sulle unioni di quella che è in corso di approvazione in Parlamento. Una legge civile, sì. Sì, per fare comprendere ai ragazzi che anche una coppia omosessuale, cioè uomo-uomo, donna-donna, è la naturalità. Chiedo al ministro, questo tipo di corso, lei che è il ministro, è ammissibile o no nella scuola italiana sulla base di questo comma 16? Ministro, vuole rispondere? Secondo me non c'è nessun problema. Sono argomenti completamente diversi. Non c'entra nulla. Mi scusi, io rispondo velocemente e poi vi devo veramente lasciare. Sono argomenti completamente diversi. Qui si parla del rispetto, a mio parere, assolutamente necessario, così come per il principio di non discriminazione e di... diffusione, diciamo, di una parità reale tra i sessi nei confronti dell'omosessualità e nei confronti dei diritti civili. Questo è un altro argomento che non ha nulla a che fare con quanto discusso finora. Come vede, sempre lì si va a cadere. Mi scusi, si fa presto a cadere. Ecco, ci sono stati anche, insomma, toni abbastanza discutibili negli interventi precedenti su questo tema, ma io mi astengo da commentare. Quello che ribadisco è che comunque, questa è un'altra risposta all'ultimo ascoltatore, qualunque piano formativo, e questo l'abbiamo già chiarito in altre occasioni, passa attraverso il consenso informato di tutta la comunità scolastica, incluse le famiglie, quindi non entra assolutamente con i principi che la legge indica al comma 16 e quindi in generale sul tema dell'educazione alla parità e alla non discriminazione, ma qualunque argomento deve passare attraverso questo filtro. Io vi ringrazio e vi saluto perché purtroppo sto partendo e ho... Ringrazio lei, Ministro, perché almeno ha dato la conferma che non esiste un complotto, non esiste una volontà precisa, non c'è una voglia di creare confusione, ma è un tema così spinoso e così complicato, e fra un istante, poi con persone adeguate a darvi anche delle cognizioni tecniche, faremo capire che in realtà la teoria gender, come voi la immaginate, non esiste, non è mai esistita, è una delle tante leggende che serve appunto per creare un puntello, perché poi le ideologie si possono confrontare su un piano non certo di serenità. A tra un istante. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. .800240024, questa dovrebbe essere una trasmissione chiarificatrice sulla sorta di filo sottile, preoccupante e leggendario, aggiungo io, sulla teoria del gender, il complotto del gender che sarebbe appoggiato da una campagna all'interno della scuola italiana. Ha appena parlato a noi il ministro Stefania Giannini, che ci ha lasciato perché ha un aereo che l'aspettava, cioè che l'aspettava, che doveva prendere, e ha detto che in realtà proprio in queste ore è stata mandata una circolare a tutti i dirigenti scolastici d'Italia, perché c'è la necessità di chiarire questa sorta di paura, di allarme che sta circolando in tutte le scuole d'Italia, riservandosi di passare alle vie legali a chi continuerà comunque ad accusare la scuola italiana questa sorta di complotto per modificare la società. Mi rendo conto che è un tema molto difficile, che appoggia le basi su qualcosa che è sempre stato terreno di scontro, è la gestione della sessualità. Io questa mattina vorrei dare un elemento in più e darò fra poco parole ai tanti ascoltatori che vogliono dire la loro, tutti spaventati, tutti terrorizzati, tutti con dei bambini che da un momento all'altro possono essere colpiti da questa sorta di complotto che assomiglia molto ai complotti del passato, però hanno generato soltanto discriminazione, hanno generato soltanto distruzione. Emanuele Iannini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Emanuele Iannini, professore di endocrinologia e sessuologia medica di Tor Vergata, presidente della Società Italiana Andrologia e Medicina della Sessualità. È uno dei sessuologi più conosciuti nel mondo, è una delle nostre eccellenze scientifiche. Già lo chiamai qualche mese fa a spiegarci cosa ci fosse dietro questa ideologia gender, che fino a 3 anni fa nessuno sapeva nemmeno di cosa fosse. Oggi chiunque ferma una persona per strada dice cos'è il gender, e questo scappa spaventato. Ci rispieghi, Emanuele Iannini, esattamente su cosa si fonda l'idea che oggi sta spaventando moltissime famiglie in Italia? Sì, si fonda su una cialtronesca idea che un psicologo, medico e psicologo americano, John Money, ebbe all'inizio degli anni 70, secondo la quale i bambini nascono come delle tabule rase sulle quali si può scrivere qualsiasi cosa dal punto di vista del genere, dell'orientamento e della sessualità. Questa idea è un'idea che non è che è stata destituita di fondamento dalla scienza, di più. Tutte le evidenze scientifiche sono assolutamente concordi nel dire che c'è un fondamentale imprinting che addirittura si dipana durante la vita intrauterina, cioè prima addirittura della nascita. Figuriamoci se l'ambiente è così drammaticamente in grado, come vorrebbe appunto questa idea di questo complotto, in grado di modificare per l'appunto questa impostazione. Sei d'accordo, Emanuele Iannini, lo del tu perché ci conosciamo da tanto tempo, che ci sia dei punti di similitudine con una ben più terribile e ben più nefasta teoria complottista, quella dei protocolli, le Sapienzianissime? Riconosco la stessa mano, sono d'accordissimo. Si vede lo stesso scrittore imbranato, cialtrone e veramente stupido, perché per l'appunto si vuole raccontare una cosa che è prescientifica, che è, ripeto, non ha mai trovato nessuna conferma scientifica, che è sostanzialmente rigettata dalla comunità scientifica, cioè appunto l'idea che ci sia questa fluidità che possa essere modificata a piacimento a seconda del vestitino che uno si mette o della bambolina che uno utilizza. Bene, ripeto, questa non ha assolutamente nessuna cittadinanza. C'è una lettura che consiglio vivamente a tutti, anche perché è un premio Pulitzer, ha girato poco in Italia ed è un peccato perché è uno dei romanzi più belli che io ho adottato, tra l'altro, come lettura consigliata per i miei studenti, e si chiama Middlesex, che è la storia di una persona che viene appunto, per una serie di motivazioni che non vi anticipo, allevata come femmina, ma poi scopre in realtà di essere, secondo il suo sesso biologico, per l'appunto maschio. Beh, anche il Pellide Achille fu allevato come femmina, a parte qualche trascorso compatibile, era un grande guerriero, capito? Direi assolutamente mascolinissimo, assolutamente mascolino. Sento qualche ascoltatore, Emanuele, così mi dai una mano. Allora, Emanuele Iannini, il ministro ha già detto che la scuola non ci pensa nemmeno di far passare qualcosa assimilabile a una presunta teoria gender, e addirittura è molto arrabbiata, dice passerà le vie legali se continuate coi tanti problemi che abbiamo a dirci questa cosa qua. Emanuele Iannini, che rappresenta la comunità scientifica internazionale, dice che non esiste nessun scienziato nel mondo che vi dirà che esiste la teoria gender. È una cialtronata. Volete continuare a appoggiare le vostre paure su una cialtronata? Laura da Pordenone. Ma infatti io sono madre di 3 figli, assolutamente serena e tranquilla, spero che le parole estremamente chiare e precise dei suoi ospiti hanno chiarito le idee anche a gran parte dei genitori così confusi. E se io ripenso al percorso scolastico dei miei 3 figli, una è ancora al nido, tutti loro ormai da anni hanno provato come gioco l'esperienza del travestimento, e lo hanno provato al nido, l'hanno provato alla scuola dell'infanzia, e questo non ha in nessun modo determinato, si sono semplicemente divertiti, e noi stessi, quando si giocava a chi faceva il padre e chi faceva la madre, noi eravamo lo stesso 3 sorelle e una le toccava sempre fare il padre, adesso siamo tutte 3 madri, sì, voglio dire. Cioè io mi meraviglio una cosa, Laura Pordenone, che dalle vostre parti, diciamo che il Veneto è una delle aree più reattive nei confronti del complotto gender, Padova, Pordenone, Vicenza, Verona, sono i più spaventati, Bergamo, poi ancora salendo, passando al Veneto. Ma se passate, fate un giretto la notte per le vostre strade, trovate un'infinità di padri di famiglia che vanno a cercare altri uomini vestiti da donna, perché non si preoccupano di quella deriva eventualmente rispetto alla cosiddetta ortodossia sessuale, piuttosto che continuare a pensare che i bambini vengono fatti giocare con le bambole perché si vuole cambiare la società. Simon da Torino, o Simon, non so bene. Simon. Simon. Ciao, ci conosciamo. Mi hai fatto venire in mente un'esperienza delle mie elementari, quindi in tempi assolutamente non sospetti quando teorie gender nemmeno esistevano. Io ho fatto una recita in cui facevo la madre dell'alpino, ti assicuro che non ha toccato minimamente il mio sviluppo e la mia capacità di valutare quali erano i miei gusti. Ma come penso che sono, sì, che sia normale che sia. Esattamente. No, quello che mi meraviglio, è l'essere ricaduti improvvisamente in una pura così arcaica e così priva di un minimo di sostrato di elaborazione culturale. Carlo, provincia di Barletta. Salve Nicoletti, ecco. Buongiorno. Senta, io parto dal presupposto che sono un cristiano al 100%. Vabbè, quelli sono problemi suoi, non è che... Certo, cambia la vita. Ma sulla base di questo io non sono d'accordo su questa teoria gender che viene spiegata a scuola. Ma abbiamo già detto che non esiste, ma ci ha ascoltato fino adesso, abbiamo detto che non esiste, è una cialtronata. Non è vero che la insegnano a scuola, è una campagna di propaganda, che non sa per quale ragione, probabilmente saranno fini che in questo momento non mi interessa. Vogliono spaventare i genitori facendogli credere che a scuola c'è una sorta di complotto per cambiare l'ossatura fondamentale della società, portando i maschietti a essere femmine e le femmine a essere maschietti. Detto che una grande cialtronata, perché continua a essere spaventato? No, non sono per niente spaventato, per l'amor di Dio, non penso manco al complotto, perché ognuno è libero di far leggi che vuole, però io come padre di famiglia io impongo a mia figlia che queste cose qua non le deve manco ascoltare in classe. Ma se nessuno le dice, come fa a ascoltarle? Scusi, ma... No, il fatto di bambini e femminucce e maschietti si devono scambiare questi vestiti qua per gioco, a me già da ma è una leggenda, ma sì, a parte che l'hanno sempre, ma io non l'ho mai visto, non esiste scritto da nessuna parte, non c'è scritto nessuna circolare scolastica, nessun insegnante gli è stato fatto un corso per far scambiare vestiti ai bambini. Vi rendete conto che è come la leggenda metropolitana dei coccodrilli nei gabinetti di New York, è qualcosa che gira di voce in voce e si aggrappa comunque alla parte più fragile della nostra capacità di elaborare un problema. Giuseppe da Milano. Buongiorno, senta, volevo solamente dire che è una cialtronata davvero, perché io mi sono accorto che mio figlio ha lasciato il nido l'anno scorso, cioè l'anno scolastico scorso, gli hanno fatto giocare con le bambole, mettendole delle cremine, lavandole e tutto quanto, ma alla fine mio figlio regna sovrana la sua maschilità, nel senso che continua a chiedermi delle macchinine da corsa. Quindi lei sta tranquillo. Sì, ma sto tranquillissimo, voglio dire, sono pienamente d'accordo con il tema attuale della trasmissione. Io penso una cosa, Giuseppe, lo sa, io penso che nelle scuole facciano le stesse cose che hanno sempre fatto. Probabilmente in dei nidi ci sono bambini e bambine insieme, la bambina giocherà con la pistolina o con il pupazzo del dinosauro e il bambino giocherà con la bambola. Io da piccolo mi incuriosivo molto nelle bambole, era stato il mio primo approccio con un'idea che era molto vaga di anatomia femminile, era guardando cosa c'erano le bambole sotto la gonna. È normale, poi mi piace tagliarle a pezzi, bruciarle, togliergli gli occhi. È un gioco tipico dei maschi, prendere la bambola della femmina e distruggerla. Emanuele Iannini, un veloce commento a queste telefonate e poi passiamo la linea e poi continuiamo con te. Ma direi che c'è anche un'altra cosa, una confusione che ovviamente non può che fare sorridere un pochino, perché è veramente così rudimentale, tra genere e orientamento. L'idea che appunto siano la stessa cosa e che l'orientamento sessuale coincida appunto con il genere è anch'essa un'idea assolutamente ridicola. Una cosa è il genere, cioè cosa ci si sente di essere, e una cosa cosa ci piace, che è per l'appunto l'orientamento. Fermiamoci un istante, do la linea, sono già in ritardo, poi riprendo con te. Mi interessa molto questa differenza, spero che le persone possano capire, tranquillizzarti. Melog. Cronache meridiane. Senti Emanuele Iannini, questa telefonata, questo sms che mi mandano, a parte uno che dice e adesso continui Nicoletti con le bambole gonfiabili. Nicoletti, quando è che finisce la sua sprezzante, ignorante crociata a favore di un'educazione totalmente ributtata alla comunità scientifica? Psicologia. avrei da dire. Dei genitori dal buonsenso la pagano e parecchio per fare informazioni, se ci riesce, si intende. Allora, c'è una comunità scientifica che in realtà ributta quella che è l'evidenza scientifica. A me non risulta, Emanuele Iannini. No, non risulta. Tra l'altro, ancora una volta debbo così mitemente sorridere, sommessamente sorridere, di fronte a queste rappresentazioni molto evidenti di paura. Lo stesso ministro ne parlava prima, il tema della fobia, che si concentra poi nel termine così molto generico di omofobia, ma diciamo è proprio il tema della fobia, il tema della paura, mi sembra il leitmotiv di tutti questi modi di pensare. Noi abbiamo pubblicato la settimana scorsa sul Journal of Sex and Medicine un articolo che ha fatto il giro del mondo, se ne è parlato in tutto il mondo, se ne sta parlando in tutto il mondo, naturalmente non nel nostro paese, ma questo direi che è abbastanza normale, che documentava come l'omofobia sia sostanzialmente sostenuta da un tratto di personalità fortemente immaturo, una sostanziale insicurezza, ed è un atteggiamento che è un atteggiamento fondamentalmente per l'appunto di paura. Ora, questi aspetti che delineano quasi, come dire, una condizione che possiamo definire in qualche maniera patologica, cioè malata, cioè quella appunto di chi ha timore, bene, ecco, per la prima volta siamo stati in grado di documentare scientificamente questo dato e credo che sia molto importante perché ci fa capire che il vero malato è colui che ha paura, soprattutto colui che ha paura di un fantasma che non esiste, perché appunto se la teoria del gender, come dicevamo prima, non ha nessun fondamento scientifico e se chi è contro la teoria del gender non crede che possa avere fondamento scientifico, perché averne paura? In altre parole, se io anche insegnassi, cosa che non faccio, ai miei studenti o ai miei figli la cosiddetta teoria del gender, se questa non ha senso, come appunto si sostiene, e io sono convinto che sia così, se questa non ha senso, che timore devo avere che si possa in qualche maniera impattare sulla sessualità delle persone? È come, come insegnare Guarizzi con i cristalli oppure esatto, con i fiori di Bacca, la stessa cosa. Non ha nessun senso. Male cioè, non fa, se vuoi farlo, fallo, ci puoi anche credere. Tanto siamo assolutamente d'accordo, i cosiddetti antagonisti della teoria del gender, io sono perfettamente d'accordo con loro sul fatto che sia destituita di fondamento, e proprio perché è destituita di fondamento francamente non mi interessa assolutamente, non mi preoccupa minimamente. Io so perfettamente, ripeto, leggete Middlesex per avere una rappresentazione letteraria bellissima, so perfettamente che non c'è nulla da fare quando c'è un programma biologico impostato, quel programma biologico rimane, e sto parlando di identità, attenzione, non di orientamento, ancora una volta lo devo ribadire perché è un concetto completamente differente. Ebbene, la identità sessuale viene a essere sostanzialmente impattata e imprintata durante la vita prenatale ad opera di geni e di ormoni, che sono i fondamentali attori di questa vicenda. Ecco, è caduta la telefonata di un ascoltatore che anche lui raccontava che suo figlio all'asilo hanno fatto giocare con le bambole. Improvvisamente la rappresentazione emotiva più spaventosa paurosa, è il bambino che gioca con la bambola all'asilo. Stefano da Roma. Perché c'è questa fragilità, ecco, proprio questo elemento di fragilità che viene fuori da questa paura, per l'appunto. Che però... tu hai avuto figli, abbiamo figli, e sempre i bambini hanno giocato con le bambole, i maschi, curiosissimi, curiosissimi, ma anche io, ma figuriamoci, ho bruciato, fatto a pezzi e smutandato non so quante bambole, ma tutti l'abbiamo fatto. Stefano da Roma. Salve, io anch'io ho giocato con le bambole da piccolo, io chiamo dal terzo municipio di Roma, e a me non dà fastidio che i bambini giochino con le bambole, mi dà fastidio, mi ha dato profondamente fastidio che nella scuola dell'infanzia di uno dei miei tre figli, io ho trovato nello zaino di mio figlio un libricino, e ce n'erano diversi altri nella biblioteca della scuola, in cui c'era raccontata ai bambini dell'asilo la storia del piccolo uovo che deve andare in giro per il mondo a cercare la coppia presso la quale schiudersi, e trova due mamme oppure due papà oppure una mamma e un papà, e poi conclude: non fa niente chi troverò, l'importante è che io sia amato. Oppure stessa biblioteca, la storia del pinguino che viene educato e cresciuto da due papà e cresce benissimo. Ecco, a me dà fastidio che a mio figlio venga insegnato, fra l'altro senza avvisarmi prima, questo, e ho scoperto che lo dicevano anche in classe. Penso sia una scelta della scuola, lei ha diritto di dire alla scuola se non le va che facciano queste cose. Ma su questi temi la scuola si deve confrontare con me, perché non esiste che insegnino a mio figlio. Sì, ma ho capito, è un problema che è circolato, come l'ho capito, questo libricino che tendeva a non creare discriminazione per i bambini che rarissimi, devo dire onestamente, rispetto alla media, che avevano due mamme o due papà, per non farli sentire diversi dagli altri, davano questa sorta di strumento. Però Stefano gli sta bene, però non entra con la teoria del genere. Raffaele, La Spezia. Raffaele. Raffaele. Eccomi qua. Raffaella, sì. Eccomi. Sì, sì, Raffaella, sì. Io sono sinceramente sconcertata da tutta questa paura, perché l'unica cosa che mi viene in mente davanti a questa angoscia, a questa cosa autoalimentantesi, è semplicemente che i genitori non siano sicuri dei valori che trasmettono ai loro figli, punto primo. Punto secondo, io devo essere la madre più sfigata del mondo perché ho una figlia che è nata immediatamente lesbica, perché adora giocare con i vichinghi. Da quando ha 12 mesi non fa altro che giocare con il meccano e a Babbo Natale ha chiesto il set degli attrezzi da lavoro, quindi sicuramente io, mia figlia... Sì, o magari farà l'ingegnere, come anche più possibile, esatto, che sia. È quello che volevo dire. Sì, oggi esistono sempre meno giochi da bambino e giochi da bambina. Anche questa è una suddivisione arcaica, fa parte delle nostre nonne. Oggi vanno bambini e bambine, a parte la fase dei piccoli pony e delle bamboline, comprano le stesse cose. Beh, grazie a Emanuele Iannini, grazie al ministro Giannini, grazie a quanti hanno dato il loro contributo. Se oggi sono riuscito a far fugare un po' di paura che i figli giochino con le bambole, quindi diventeranno tutti omosessuali, forse ho raggiunto il mio scopo.